Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Quinta puntata. Lino tolse il braccio, aprì la porta e introdusse Marcello nella camera. Era una stanzetta bianca, lunga e stretta, con una finestra in fondo. Non c'era che un letto, un tavolo, un armadio e un paio di seggiole. Tutti questi mobili erano dipinti di verde chiaro. Marcello notò, appeso alla parete sopra il capezzale, un crocifisso di bronzo del tipo più comune. Sul comodino si vedeva un libro spesso, rilegato in nero con il taglio rosso, che Marcello giudicò essere un libro di devozioni. La camera, vuota di oggetti e di panni, sembrava oltremodo pulita. Tuttavia per l'aria c'era un odore forte come di sapone all'acqua di colonia. Dove l'aveva già sentito? Forse nel bagno, subito dopo che sua madre al mattino vi si era lavata. Lino gli disse negligentemente: «Siediti sul letto, vuoi? È più comodo». Ed egli obbedì, in silenzio. Lino adesso andava e veniva per la camera. Si tolse il berretto e lo posò sopra il davanzale della finestra. Si sbottonò il colletto e con un fazzoletto si asciugò il sudore intorno al collo. Poi aprì l'armadio. Ne trasse una grande bottiglia di acqua di colonia, vi bagnò il fazzoletto e se lo passò con sollievo, intorno il viso e sulla fronte. «Ne vuoi anche tu?» domandò a Marcello. «È rinfrescante». Marcello avrebbe voluto rifiutare. La bottiglia e il fazzoletto gli incutevano non sapeva che ribrezzo. Ma lasciò che Lino gli passasse con fresca carezza la palma sulla faccia. Lino ripose l'acqua di colonia nell'armadio e venne a sedersi sul letto di fronte a Marcello. Si guardarono. Il viso di Lino, secco e austero, era adesso atteggiato ad un'espressione nuova, struggente, carezzevole, supplichevole. Egli contemplava Marcello e taceva. Marcello, spazientito anche per far cessare quella contemplazione imbarazzante, domandò al fine: «E la rivoltella?» Vide Lino sospirare e poi trarre di tasca, come a malincuore, l'arma. Egli tese la mano, ma il viso di Lino si indurì. Egli ritirò l'oggetto e disse in fretta: «Te la darò, ma devi meritartela». Marcello a queste parole provò quasi un sollievo. Dunque era come aveva pensato. Lino voleva qualche cosa in cambio della rivoltella. Con tono sollecito e falsamente ingenuo, come a scuola quando faceva qualche baratto di pennini o di palline di vetro, disse: «Di tu quello che vuoi in cambio e ci metteremo d'accordo». Vide Lino abbassare gli occhi, esitare e poi domandare lentamente: «Cosa faresti per avere questa rivoltella?» Notò che Lino aveva eluso la sua proposta. Non si trattava di un oggetto da scambiare con la rivoltella, ma di qualche cosa che egli avrebbe dovuto fare per ottenerla. Sebbene non capisse che cosa potesse essere, disse sempre con quel suo tono falsamente ingenuo: «Non so, dimmi tu». Ci fu un momento di silenzio. «Faresti qualsiasi cosa?» domandò ad un tratto Lino con voce più alta, afferrandogli una mano. Il tono e il gesto allarmarono Marcello. Egli si domandò se per caso Lino non fosse un ladro che gli chiedesse la sua complicità. Gli parve, dopo riflessione, di poter scartare quest'ipotesi. Tuttavia rispose prudentemente: «Ma che cos'è che vuoi che io faccia? Perché non lo dici?» Lino si trastullava adesso con la sua mano, guardandola, rivoltandola, stringendola e allentandola stretta. Poi, con gesto quasi sgarbato, la respinse e disse, guardandolo lentamente: «Sono sicuro che certe cose non le faresti». «Ma dillo», insistette Marcello con una specie di buona volontà tutta mischiata di imbarazzo. «No». «No», protestò Lino. Marcello notò che un rossore singolare, ineguale, gli macchiava il viso pallido al sommo delle guance. Gli parve che Lino fosse tentato di parlare, ma volesse essere sicuro che lui lo desiderava. Allora ebbe un gesto di consapevole, seppure innocente, civetteria. Si sporse e andò con la sua ad afferrare la mano dell'uomo. «Dillo, su, perché non lo dici?» Seguì un lungo silenzio. Lino guardava ora alla mano di Marcello, ora al viso, e pareva esitare. Finalmente respinse di nuovo la mano del ragazzo, ma con dolcezza questa volta. Si levò e mosse qualche passo per la stanza. Quindi tornò a sedersi e riprese la mano di Marcello in maniera affettuosa, un po' come un padre o una madre prendono la mano al figlio. Disse: «Marcello, sai chi sono io?» «No. Sono un prete spretato», disse Lino con uno scoppio di voce doloroso, accorato, patetico. «Un prete spretato scacciato per indegnità dal collegio dove insegnava. E tu, nella tua innocenza, non ti rendi conto di quello che potrei chiederti in cambio di questa rivoltella che ti fa tanto gola? E io sono stato tentato di abusare della tua ignoranza, della tua innocenza, della tua infantile avidità. Ecco chi sono, Marcello». Egli parlava in tono di profonda sincerità. Poi si voltò verso il capo del letto e, in una maniera inaspettata, apostrofò il crocifisso senza alzare la voce, come lamentandosi: «Ti ho tanto pregato, ma tu mi hai abbandonato e sempre, sempre ricado. Perché mi hai abbandonato?» Queste parole si persero in una specie di mormorio, come se Lino avesse parlato con se stesso. Quindi si levò dal letto, andò a prendere il berretto che aveva posato sul davanzale e disse a Marcello: «Andiamo, vieni, ti riaccompagno a casa». Marcello non disse nulla. Si sentiva stordito e incapace per adesso di giudicare quanto era avvenuto. Seguì Lino per il corridoio e poi attraverso la sala di soggiorno. Fuori sullo spiazzo il vento soffiava tuttora intorno alla grande macchina nera, sotto un cielo rannuvolato e senza sole. Lino salì sulla macchina e lui gli sedette accanto. La macchina si mosse, percorse il viale e uscì dolcemente dal portale nella strada. Per un lungo momento non parlarono. Lino guidava come prima, eretto il busto, la visiera del berretto sugli occhi, le mani guantate posate sul volante. Percorsero un buon tratto di strada e poi Lino, senza voltarsi, domandò in maniera inopinata: «Ti dispiace di non avere avuto la rivoltella?» A queste parole si riaccese nell'animo di Marcello l'avida speranza di possedere l'oggetto tanto desiderato. Dopotutto, gli venne fatto ripensare, poteva darsi che nulla fosse ancora perduto. Rispose con sincerità: «Certo che mi è dispiaciuto». «Così», domandò Lino, «se ti dessi appuntamento per domani, alla stessa ora di oggi, tu ci verresti?» «Domani è domenica», rispose giudiziosamente Marcello. «Ma lunedì sì. Possiamo incontrarci sul viale allo stesso punto di oggi». L'altro tacque un momento. Quindi, improvvisamente, con voce lamentosa e forte, gridò: «Non parlarmi più. Non guardarmi più. E se lunedì mi vedrai a mezzogiorno sul viale, non darmi retta, non salutarmi, hai capito?» «Ma che gli prende?» si domandò Marcello un po' indispettito e rispose: «Io non ci tengo a vederti. Sei tu che oggi mi hai fatto venire a casa tua. Sì, ma non deve più ripetersi, mai più», disse Lino con forza. «Io mi conosco e so di certo che stanotte non farò che pensare a te e che lunedì ti aspetterò sul viale, anche se oggi decido di non farlo. Io mi conosco, ma tu non devi curarti di me». Marcello non disse nulla. Lino proseguì sempre con la stessa furia: «Io penserò a te tutta la notte, Marcello, e lunedì sarò sul viale con la rivoltella, ma tu non devi curarti di me». Egli girava intorno la stessa frase, ripetendola, e Marcello, con la sua fredda e innocente perspicacia, capiva che in realtà Lino voleva dargli un appuntamento e col pretesto di metterlo in guardia effettivamente glielo dava. Lino, dopo un momento di silenzio, domandò di nuovo: «Hai sentito?» «Sì. Che cosa ho detto?» «Che lunedì sarai sul viale ad aspettarmi». «Non ti ho detto soltanto questo», disse l'altro con dolore. «E che», finì Marcello, «io non dovrò curarmi di te?» «Sì», confermò Lino. «A nessun patto. Guarda che io ti chiamerò, ti supplicherò, ti seguirò con la macchina, ti prometterò tutto quello che vuoi, ma tu devi tirare dritto e non darmi retta. Marcello, spazientito, rispose: va bene, ho capito. Ma tu sei un bambino, disse Lino, passando dalla furia ad una specie di carezzevole dolcezza, e non sarai capace di resistermi. Verrai senza dubbio. Sei un bambino, Marcello. Marcello si offese. Non sono un bambino, sono un ragazzo, e poi tu non mi conosci. Lino fermò di colpo la macchina. Erano ancora sulla strada della collina, sotto un alto muro di cinta. Più avanti si intravedeva l'arco ornato di lampioncini veneziani di un ristorante. Lino si voltò verso Marcello. Veramente, domandò con una specie di dolorosa ansietà, veramente ti rifiuterai di venire con me? Non sei forse tu? Domandò Marcello, ormai consapevole del suo gioco, che me lo chiedi. Sì, è vero, disse Lino, disperato, rimettendo in movimento l'automobile. Sì, è vero, hai ragione. Sono io il pazzo che te lo chiedo, proprio io. Dopo questa esclamazione, egli tacque e ci fu silenzio. La macchina discese fino in fondo alla strada e percorse di nuovo le sudice vie del quartiere popolare. Ecco il grande viale con gli alti platani nudi e bianchi, i mucchi di foglie gialle lungo i marciapiedi deserti, le fabbriche piene di finestre. Ecco il quartiere dove si trovava il villino di Marcello. Lino domandò senza voltarsi: dove sta la tua casa? È meglio che fermi qui, disse Marcello, consapevole del piacere che ispirava all'uomo questo suo accento di complicità. Altrimenti potrebbero vedermi mentre scendo dalla tua macchina. L'automobile si fermò. Marcello discese e Lino, attraverso il finestrino, gli tese il pacco di libri, dicendo decisamente: allora, a lunedì, sul viale, allo stesso posto di oggi. Ma io, disse Marcello prendendo i libri, debbo fingere di non vederti, no? Vide Lino esitare e provò quasi un sentimento di crudele soddisfazione. Gli occhi di Lino, intensamente accesi in fondo alle orbite incavate, lo covavano adesso con uno sguardo supplichevole e angosciato. Poi egli disse appassionatamente: fa come credi, fa di me quello che vuoi. La sua voce terminò in una specie di lamento cantante e voglioso. Guarda che io non ti guarderò neppure, avvertì per l'ultima volta Marcello. Vide Lino fare un gesto che non capì, ma che gli parve di disperato assenso. Quindi la macchina partì, allontanandosi lentamente in direzione del viale. Ogni mattina Marcello veniva svegliato a ora fissa dalla cuoca, che aveva un'affezione particolare per lui. Ella entrava al buio nella camera portando il vassoio della colazione che andava a posare sul marmo del cassettone. Poi Marcello la vedeva appendersi con le due braccia alla corda della persiana e tirarla su con due o tre spinte della persona robusta. Egli metteva il vassoio sulle ginocchia e assisteva in piedi alla colazione, pronta, appena egli avesse finito, a gettargli via le coperte e a incitarlo a vestirsi. Lei stessa lo aiutava porgendogli i panni, talvolta inginocchiandosi a calzargli le scarpe. Era una donna vivace, allegra e piena di buon senso. Della provincia in cui era nata conservava l'accento e le affettuose abitudini. Il lunedì Marcello si destò con il confuso ricordo di avere udito la sera avanti, mentre si addormentava, uno scoppio di voci irate. Non sapeva bene se al pian terreno o nella camera dei genitori. Aspettò di aver consumato la colazione e poi domandò casualmente alla cuoca, che al solito attendeva in piedi che avesse finito: che è successo stanotte? La donna lo guardò con finto ed esagerato stupore. Che io sappia, nulla. Marcello capì che ella aveva qualcosa da dire. Il falso stupore, lo scintillio malizioso degli occhi, tutto l'atteggiamento lo denotavano. Disse: ho sentito gridare. Ah, i gridi, disse la donna. Ma questo è normale. Non lo sapevi che il tuo papà e la tua mamma gridano spesso? Sì, disse Marcello, ma gridavano più forte del solito. Ella sorrise e, appoggiandosi con le due mani alla spalliera del letto, disse: almeno gridando si saranno capiti meglio, non credi? Era questo uno dei suoi vezzi, far delle domande che non aspettavano risposta, affermative. Marcello domandò: ma perché hanno gridato? La donna sorrise di nuovo: perché gridano le persone? Perché non vanno d'accordo. E perché non vanno d'accordo? Loro? Ella gridò, felice di queste domande del ragazzo. Oh, per mille motivi, magari un giorno perché la tua mamma vorrebbe dormire con la finestra aperta e il tuo papà non vuole. Un altro giorno perché a lui piace andare a letto presto e invece alla tua mamma piace fare tardi. I motivi non mancano mai, no? Marcello disse ad un tratto, con gravità e convinzione, come esprimendo un suo antico sentimento: io non ci vorrei più stare qui. E che vorresti fare? Gridò la donna, sempre più allegra. Tu sei piccolo, non puoi mica andare via di casa, devi aspettare di essere grande. Preferirei, disse Marcello, che mi mettessero in un collegio. La donna lo guardò intenerita e gridò: hai ragione, in un collegio avresti almeno chi penserebbe a te. Lo sai perché hanno gridato tanto stanotte tuo padre e tua mamma? No. Perché? Aspetta che ti faccio vedere. Sollecita, ella andò alla porta e scomparve. Marcello l'udì scendere a precipizio giù per la scala e si domandò una volta di più che cosa avesse potuto succedere la notte avanti. Di lì ad un momento sentì la cuoca risalire la scala. Poi ella entrò nella camera con aria di allegro mistero. Teneva in mano un oggetto che Marcello subito riconobbe. Una grande fotografia, fatta quando Marcello aveva poco più di 2 anni. Vi si vedeva la madre di Marcello, vestita di bianco, con in braccio il figlio, anche lui in una vesticciola bianca, un fiocco bianco sui capelli lunghi. «Vedi questa fotografia?» gridò la cuoca gioiosa. «La tua mamma, ieri sera, tornando dal teatro, è entrata nel salotto e la prima cosa che ha veduto sul pianoforte è stata questa fotografia, poveretta. Per poco non è svenuta. Guarda un po' che gli ha fatto questa fotografia il tuo papà». Marcello, stupito, guardò la fotografia. Qualcuno con la punta di un temperino o di un punteruolo aveva forato gli occhi così alla madre come al figlio. E poi col lapis rosso aveva segnato tanti piccoli tratti sotto gli occhi ad ambedue come a indicare lacrime sanguigne sporgenti dai 4 fori. La cosa era così strana e inaspettata e insieme oscuramente funesta che Marcello per un momento non seppe che pensare. «È il tuo papà che ha fatto questo?» gridò la cuoca. «E la tua mamma aveva ragione di gridare». «Ma perché l'ha fatto?» «È una fattura. Lo sai che cos'è una fattura?» «No?» «Quando si vuole male a qualcuno, si fa quello che ha fatto il tuo papà. Qualche volta, invece di bucare gli occhi, si buca il petto, in direzione del cuore, e poi qualche cosa succede». «Che cosa?» «La persona muore. Oppure gli succede una disgrazia, dipende». «Ma io», balbettò Marcello, «non ho fatto niente di male a papà». «E la tua mamma, allora, che gli ha fatto?» gridò la cuoca indignata. «Ma sai che cos'è tuo padre? Matto! E sai dove finirà? A Sant'Onofrio, alla casa dei matti. E adesso su, vestiti, è ora che vai a scuola. Io vado a riporre questa fotografia». Tutta allegra, ella corse via e Marcello rimase solo. Impensierito, incapace di spiegarsi in alcun modo l'incidente della fotografia, riprese a vestirsi. Non aveva mai provato per il padre alcun sentimento particolare e l'ostilità di lui, vera o falsa che fosse, non lo addolorava. Ma le parole della cuoca circa i malefici poteri della fattura gli davano da pensare. Non che fosse superstizioso e credesse veramente che bastasse bucare gli occhi ad una fotografia per far del male alla persona fotografata, ma questa follia del padre ridestava in lui un'apprensione che si era illuso di avere definitivamente sopita. Era il senso spaurito e impotente di essere entrato nel cerchio di una fatalità funesta che l'aveva ossessionato per tutta l'estate e che adesso, come al richiamo di una malefica simpatia, di fronte a quella fotografia macchiata di lacrime sanguigne, si ridestava nel suo animo più forte che mai. Cos'era la disgrazia? Si domandò. Cos'era, se non il punto nero sperduto nell'azzurro dei cieli più sereni che, tutto a un tratto, ingrandisce, diventa uccellaccio spietato e piomba addosso al disgraziato come un avvoltoio sulla carogna. Oppure la trappola di cui si è avvertiti e che anzi si vede distintamente e nella quale tuttavia non si può fare a meno di mettere il piede. Oppure addirittura una maledizione di goffaggine, di imprudenza e di cecità insinuata nei gesti, nei sensi, nel sangue. Quest'ultima definizione gli sembrò la più appropriata, come quella che riconduceva la disgrazia ad una mancanza, appunto, di grazia, e la mancanza di grazia ad una fatalità intima, oscura, nativa, imperscrutabile, sulla quale il gesto del padre, come un'indicazione all'imboccatura di una strada funesta, aveva richiamato di nuovo la sua attenzione. Egli sapeva che questa fatalità voleva che egli uccidesse. Ma ciò che lo spaventava di più non era tanto l'omicidio, quanto di esservi predestinato, qualunque cosa facesse. Lo atterriva, insomma, l'idea che persino la consapevolezza fosse stata ignoranza, ma un'ignoranza di un genere particolare che nessuno avrebbe potuto reputare tale, e lui meno degli altri. Ma più tardi, a scuola, con puerile volubilità, dimenticò improvvisamente questi suoi presentimenti. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.